It turns out that Petraeus, a week and a half ago, went to Tripoli, Libya, and conducted his own personal inquiry into Benghazi. Ecco, direi che con questa dichiarazione che vi ho fatto sentire chiudiamo il cerchio. Chi parla è Bob Woodward, il giornalista americano che ha fatto cadere il presidente Nixon, che ha rivelato lo scandalo Watergate, il massimo teorico del complotto, una persona che ha entrature come nessun altro a Washington. Cosa ci ha rivelato Woodward ieri mattina? Che Petraeus, una settimana e mezzo fa, dunque prima di sapere di essere oggetto di questa inchiesta, e questo è un elemento in più, nessuno lo sapeva, non lo sapeva neanche Petraeus, si reca direttamente e personalmente a Tripoli per condurre la sua inchiesta personale. Non si fida necessariamente dei suoi sottoposti, vuole capire nel dettaglio che cosa è successo e nel suo carattere, dice Woodward. Lì interroga le persone che erano più direttamente coinvolte in quello che era successo a Benghazi e se ne ritorna a casa con una situazione molto chiara in testa. Dunque era prontissimo a testimoniare.